offerta divide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi, la prima amnesia non si scorda mai. La gente che conta quest'anno va minco, non sa fare gli hippie fumando l'origano. Sarà il piccione che gioca d'anticipo, compa, per questi occhi rossi non c'è testamento. Abbiamo perso, ma ci credevo, come i mondiali e alle elezioni. Prova costume per smaltire peso, qui ci nutriamo solo di illusioni. E abbastanza pesante Kim Jong-un, hai la gamba pesante per fake news. Come ti chiami su YouTube, Alfano? La moda in Italia, i limiti di cucina e la cultura culinaria. Facciamo la ceretta per l'opinione pubblica? Toccheremo il cielo e taggheremo il fondo. Venuti male come le foto sul passaporto. Più che fuori dall'Europa siamo fuori dal mondo. E se sei buona c'è lo sconto. Ma per te è ovvio, perché tu sei feccia. Italiana, l'estate che cerchi non è lontana. La gente per nulla lo sai, si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando, con l'acqua alla gola. Ti racconteremo una storia italiana, ma mi è andata a Napoli. Vedrai che il lavoro nemmeno ti sfiora, e anche se piove la musica suona. One, two, oh, man, coffee is everything, guys. One, two, oh, man, because coffee is very cute. Italiana, capra italiana. Capra italiana.